Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Con l'inizio della nuova settimana torniamo a parlare di manovre e di pensionati, ma non ci addentriamo di nuovo, almeno per il momento, nelle novità del governo Monti in materia di previdenza. Per chi vuole saperne di più, a questo proposito ricordiamo però che è in edicola con il Sole 24 Ore da sabato 7 gennaio e per un mese. Le nuove pensioni, una bussola per capire il sistema pensionistico, una guida con tutte le modifiche della riforma previdenziale varata dal governo a Natale e che dal 2012 cambieranno radicalmente appunto il sistema previdenziale italiano. Detto questo, noi oggi parliamo di un'altra novità che riguarda i pensionati presenti più che quelli futuri, e cioè l'abbassamento del limite per le transazioni in contanti a 1000 euro che, come ormai tutti o quasi sanno, coinvolge anche i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione e quindi anche le pensioni. Insomma, chi percepisce una pensione uguale o superiore a 1000 euro non potrà più ritirarla in contanti, ma dovrà scegliere di utilizzare un mezzo elettronico affidandosi alle poste o ad una banca. Nelle scorse settimane l'INPS ha inviato circa 450.000 comunicazioni ai pensionati che percepiscono assegni mensili di importo complessivamente superiore a 1000 euro, pagati fino a questo momento in contanti, per invitarli a comunicare all'istituto entro la fine del prossimo mese le modalità alternative di riscossione. Oggi a Salva Danaio dunque torniamo ad affrontare la questione raccogliendo i vostri dubbi, presentandovi anche il funzionamento delle diverse alternative fra cui è possibile scegliere. Vi ricordo che sull'operazione complessiva Stop al contante, lotta al sommerso, oggi il Sole 24 Ore pubblica il poster del lunedì che è stato quasi interamente curato dal nostro anche esperto di questa mattina, consulente tributario Nicola Forte, che saluto. Dottor Forte, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E ben ritrovato. E oggi in totale solitudine lo getteremo in pasto, naturalmente in maniera positiva e costruttiva, ai nostri ascoltatori. Chiaramente, siccome il tema è a 360 gradi, vorremmo partire con la questione delle pensioni, naturalmente il pagamento alternativo alle contante. Ma se poi avrete delle altre domande anche sulla questione appunto delle transazioni finanziarie di importo superiore, chiaramente potete farci domande anche su questo. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà intanto l'opportunità di intervenire in diretta. Se invece ci volete scrivere potete utilizzare gli altri canali. Il numero di SMS è il 349 238 6666. Abbiamo anche un indirizzo di posta elettronica che è salvadanaio@radio24.it e sapete che siamo anche su Facebook salvadanaio-radio24, e quindi potete, se volete, animare anche il social network con le vostre considerazioni. Dobbiamo dare un'occhiata questa mattina anche all'andamento della borsa. È una settimana molto importante. La prima settimana del 2012 è stata davvero sul lotto volante per quello che riguarda i listini internazionali. Un anno che era partito molto bene, i primi due giorni di contrattazione avevano registrato il 2 e il 3 appunto rialzi molto consistenti, e poi le borse sono di nuovo ritornate a bruciare tutto per tante preoccupazioni. Settimana scorsa ha rifatto capolino anche un'altra crisi della quale non si parlava da qualche mese, quella dell'economia dell'est, con l'Ungheria che è sembrata ad un certo momento addirittura sull'orlo della bancarotta, con un'asta dei titoli di Stato che è andata anche parzialmente fallita. Detto questo, oggi ritorniamo a monitorare attentamente quello che succede in Italia, intanto quello che succede sul fronte internazionale, perché da qui alle prossime giornate saranno molto ricche di incontri bilaterali e poi anche multilaterali tra i leader europei per arrivare di nuovo a definire le soluzioni per la crisi del debito sovrano. La questione appunto al centro dei negoziati, dei colloqui, sarà soprattutto la questione dell'unione fiscale e anche del ruolo della Banca Centrale Europea all'interno di questa crisi. Si chiede da parte di Francia e Italia, in particolar modo appunto alla Germania, di smussare le sue rigidità. Milano perde lo 0,43% in questo momento, crollano di nuovo i titoli Unicredit, anche stamattina meno 11,21%, il titolo è stato anche sospeso stamane per eccesso di ribasso, lo vedo adesso anche di nuovo sospeso dalle 11,59, era partito bene con un rialzo di 3,5 punti dopo le ultime 3 devastanti giornate, ma poi appunto il mercato è tornato di nuovo a penalizzare fortemente il titolo. Oggi parte l'aumento di capitale che il mercato giudica eccessivamente a sconto e che porterà sicuramente all'ingresso nel capitale del gruppo di Piazza Cordusi a nuovi soci, perché non tutti gli attuali azionisti aderiranno all'operazione, o almeno non completamente secondo le quote di propria pertinenza, e quindi ancora dovremo sicuramente osservare una forte volatilità per il titolo, anche se mi pare una volatilità quasi esclusivamente indirizzata verso il basso. Monte dei Paschi tra gli altri ribassi, -4,61, perché anche qua un altro gruppo che ha bisogno di ricapitalizzarsi, ma ha già fatto sapere che non intende passare per la strada dell'aumento di capitale, per cui vedremo quali saranno le soluzioni alternative, ma di fatto il titolo continua anch'esso a scendere. Oggi c'è anche un calo di oltre 4 punti dei titoli di Salvatore Ferragamo, Atlantia -2,14, Fiat -2, Mediobanca -1,85%, però non tutti i titoli bancari vanno male, perché tra il settore bancario troviamo anche titoli che vanno invece molto bene, li troviamo in cima alla classifica dei migliori titoli: Mediolanum +2,24, Popolare di Milano +2, Impregilo +1,45, Di Assorine +1,35, il Banco Popolare Intesa San Paolo guadagnano 0,5 percentuale. Lo spread fra BTP e Bund è molto alto, è partito stamattina sui 530 punti base, adesso intorno ai 520, ma c'è da segnalare appunto che i rendimenti dei titoli tedeschi continuano a scendere, per cui l'allargamento dello spread si deve anche a questo fattore. C'è stata un'asta tedesca poco fa che ha manifestato rendimenti per i titoli a 6 mesi collocati negativi, un'operazione da quasi 4 miliardi di euro che appunto ha manifestato questa tendenza. Lascerei la borsa per il momento, tanto ci torneremo più volte nel corso della giornata. Andiamo al tema di oggi, allora: pensioni sopra i 1000 euro da febbraio, stop al contante. È finita l'epoca delle code all'ufficio postale? Forse sì, perlomeno di quelle per ricevere ogni mese la pensione. Sono gli effetti della manovra Monti che si fanno sentire. Tra le novità c'è infatti anche l'abbassamento a quota 1000 euro del tetto massimo consentito per effettuare le transazioni in contanti. Una misura che ha l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio, ma anche, ed è questo il caso, quello di snellire e rendere meno costose le procedure burocratiche. Il nuovo limite infatti riguarda anche l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi corrisposti dalla pubblica amministrazione, per i quali inizialmente si era pensato di abbassare ulteriormente l'asticella fino a 500 euro. Saranno in ogni caso molti pensionati coinvolti e costretti a cambiare le proprie abitudini, visto che attualmente vengono ritirate in contanti dall'INPS circa 2 milioni e 200.000 pensioni, un numero già in netto calo rispetto a un anno fa, quando si registravano 3 milioni e mezzo di erogazioni, ma comunque elevato. Sarà davvero così difficile, come alcuni temono, passare dal contante all'utilizzo di strumenti elettronici bancari o postali? Per scegliere lo strumento più adatto alle proprie abitudini ci sono ancora 2 mesi di tempo. I pensionati ancora affezionati alle banconote dovranno infatti comunicare entro la fine del mese di febbraio il mezzo di pagamento scelto. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Lascerei fuori, se mi permettete, il caso Unicredit, che vedo che continua ancora ad attirare molto la vostra attenzione. C'è un ascoltatore che scrive: ma Unicredit non era la banca di quel fenomeno di Corrado Passera? No, c'era Alessandro Profumo fino a qualche anno fa al comando di Piazza Cordusi, adesso c'è Federico Ghizzoni. Corrado Passera era la guida di Intesa San Paolo, per fare un po' di chiarezza. Poi sull'aumento di capitale, visto che è in corso, lascerei fuori, vedremo se è il caso di tornarci nei prossimi giorni per tornare, ci abbiamo già dedicato la puntata la settimana scorsa per tornare a chiarirvi i termini. Detto questo, Nicola Forte, io prima lanciando la scheda ho detto pensione sopra i 1000 euro da febbraio, stop al contante. Per essere proprio precisi, lo stop al contante arriva da marzo, però insomma tutti i pensionati che fino a questo momento, piuttosto che farsi accreditare la pensione o su un conto corrente o su un libretto di risparmio, non andavano a ritirare in contanti, adesso dovranno chiarire all'INPS quale altro strumento intendono utilizzare, no? E questa è una cosa che riguarda proprio quelle 400.000 comunicazioni che l'INPS ha fatto ai pensionati nella scorsa settimana, dottor Forte. Esattamente, queste persone che non hanno un conto corrente, non hanno un libretto postale, dovranno, o perlomeno potrebbero anche avere questi strumenti, ma fino ad oggi hanno sempre riscosso la pensione in contanti, dovranno tramite o gli istituti periferici dell'INPS o tramite banca o ufficio postale, o se hanno maggiore dimestichezza con la tecnologia lo possono anche fare magari facendosi aiutare da un figlio collegandosi al portale internet dell'INPS e fornire appunto gli estremi di riferimento per ricevere l'accredito della somma. Questo nel momento in cui, ripeto, sono già dotati di uno strumento. Poi si pone il problema di tutti coloro che invece a oggi ancora non hanno un conto corrente oppure non hanno un libretto postale, e qui naturalmente si dovranno fare delle scelte. Già adesso il campo di riferimento è un po' più chiaro, perché se non altro l'INPS ha individuato chiaramente una data spartiacque, cioè entro fine febbraio dovranno essere effettuate queste comunicazioni di come il pensionato intende ricevere la somma, perché dal 7 marzo appunto l'INPS non potrà più effettuare pagamenti in contanti. Abbiamo quindi sostanzialmente chiarito un problema che avevamo affrontato già i primissimi giorni in una precedente trasmissione, perché ci si preoccupava della norma che entrava in vigore il 6 dicembre e dal giorno dopo il decreto era immediatamente operativo. Allora ci si domandava appunto in questa fase di passaggio. Nella fase di conversione si è dato più tempo per l'adeguamento. Certo, perché era una questione evidentemente estremamente delicata, perché adesso un conto è magari per chi ha un conto corrente ma comunque ritirava la pensione in contanti, un conto è dire vabbè dal prossimo mese me la faccio accreditare, l'operazione era molto semplice, ma i soggetti non bancarizzati, se per principio, per necessità, non hanno nessuna intenzione di aprire una relazione con un intermediario finanziario, e lì chiaramente la questione era un po' più complessa, era necessario, evidente, era forzato appunto dover dare un po' più di tempo a queste persone. Allora, entro la fine di febbraio dunque tutti questi pensionati dovranno comunicare all'INPS, con le modalità che abbiamo detto, come intendono farsi accreditare la pensione. Mi aveva suscitato un po' di curiosità il fatto che l'INPS avesse fatto sapere di aver creato un'apposita carta elettronica denominata INPS Card per consentire ai pensionati di non incassare la pensione in contanti. Ho scoperto stamattina, dottor Forte, che questa carta per la verità esiste dal 2004, ma sicuramente molti pensionati forse neanche lo sanno, o comunque ce l'hanno in molto pochi. Questa carta si distribuisce attraverso le poste, e diciamo che in questi anni evidentemente le poste hanno preferito far utilizzare ai pensionati i propri prodotti come veicolo della pensione. Sicuramente le indicazioni sono correttissime, in particolare i pensionati avevano 6 mesi di tempo per attivare questa INPS Card. C'è anche da dire che nel momento in cui non c'era alcun problema a riscuotere non c'è stato alcun problema in passato a riscuotere la pensione in contanti, posso capire c'è stata anche una certa diffidenza a cambiare determinate abitudini. Quindi nella maggior parte dei casi i pensionati che hanno ricevuto questa INPS Card hanno fatto scadere i sei mesi di termini entro cui attivare e hanno continuato a riscuotere la pensione secondo il tradizionale sistema. Oggi evidentemente lo scenario è completamente diverso, e quindi o si apre un conto corrente o si ha appunto un libretto, o si apre un libretto postale, ovvero si può attivare anche questa INPS Card, che è una carta che indubbiamente rappresenta, porta delle opportunità, se non altro in termini di costi di gestione, facendo un confronto con il conto corrente, anche perché poi qui dovremmo aprire un discorso su una possibile convenzione che la norma stessa prevede debba essere stipulata. Allora, magari fra qualche giorno interpelleremo anche il presidente dell'INPS per farci raccontare se queste INPS Card che sono già in circolazione avranno modo di essere risvegliate, o se comunque potrà cominciare una nuova distribuzione di queste carte, che al momento non sono ancora carte di pagamento, sono delle carte elettroniche appunto che l'Istituto di Previdenza aveva messo a disposizione dei pensionati qualche tempo fa. Però apriamo subito la parentesi che ci ha sollecitato Forte, la questione appunto del rapporto con la banca. Ammettendo che il pensionato non si faccia o non voglia farsi accreditare la pensione in posta o sulla INPS Card, ma voglia decida di aprire una relazione con un intermediario finanziario bancario, la legge in termini molto espliciti dice che questo rapporto si deve aprire in termini molto vantaggiosi economicamente parlando, per cui mi chiedo veramente le banche che soluzioni adottare adotteranno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI devono, come lei ci anticipava, definire con un'apposita convenzione le caratteristiche di un conto corrente di base. Quanto tempo c'è intanto per studiare questa convenzione? Se entro marzo appunto non si potranno più pagare in contanti le pensioni, bisognerà velocizzare le operazioni, credo. Questo è un problema che è già stato sollevato, perché il periodo entro cui questa convenzione deve essere stipulata è esattamente la stessa data spartiacque, 6 marzo, che ha, a partire dalla quale scatta l'obbligo da parte dell'INPS per effettuare i pagamenti con accredito su conto corrente. Quindi in linea di principio la convenzione potrebbe arrivare fuori tempo massimo, intendo dire il 6 marzo stesso, mentre i pensionati hanno necessità di conoscere i contenuti di questa convenzione in anticipo, sia per fare un confronto tra le diverse opportunità, libretto postale, INPS card, conto corrente stesso, e sia perché l'INPS ovviamente ha indicato un termine più limitato per comunicare gli estremi per effettuare i pagamenti. In particolare l'INPS ha fatto riferimento alla data del fine febbraio, perché da lì a 7 giorni vanno ovviamente in pagamento le prime pensioni. Quindi questo è un problema, non si conosceranno con largo anticipo le condizioni di questa convenzione, che poi non è detto sia con costi completamente azzerati. Questo sarà vero per le fasce più deboli o socialmente più deboli, i cui estremi appunto caratteristiche dovranno essere individuate dalla convenzione. Ecco, adesso ci manca pure che cominciamo quest'altro giro della morte, in cui tutti i pensionati dovranno dimostrare con la produzione di altra carta e altra certificazione la loro condizione economica. Speriamo che si trovi qualcosa di molto più veloce e semplice per tutti. Anche le Poste Italiane hanno proposto appunto dei prodotti per l'accredito della pensione, 3 soluzioni a costo zero: c'è il conto Banco Posta più la INPS Card, lo ricorda, anche le Poste, c'è anche il libretto postale, naturalmente purché sia nominativo, perché quello al portatore ha delle caratteristiche più stringenti. Poi ci ritorneremo su questi argomenti. Volevo però subito cominciare a sentire le domande degli ascoltatori, perché ci sono molti che hanno questa condizione. Adesso forte gliela faccio sentire, sintetizzata appunto da Oreste, dalla provincia di Verona, perché magari molti prendono come pensione una cifra inferiore mensile a quella che abbiamo indicato, che è quella del limite definita appunto dalla legge. Ma chiaramente in dicembre succede qualcos'altro: molti pensionati percepiscono appunto una 1/13, che quindi alza automaticamente la soglia della così tracciabilità, passatemi il termine. In questo caso che cosa succede? Vi faccio raccontare il caso da Oreste e poi gli risponderemo. Oreste, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a lei, grazie. Appunto quello che ha detto lei, esattamente, io prendo poco più di 600 euro al mese di pensione, chiaramente poi a dicembre con la 1/13 si superano i 1000 euro. L'ente previdenziale che ho interpellato non sa letteralmente che cosa fare. Io non vorrei fare nessun rapporto né bancario né postale. E naturalmente non vuole prendere neanche nessuna sanzione, Oreste, per questo comportamento, per continuare ad andarla a prelevare. Adesso sentiamo, sì, ha terminato? Mi scusi. Sì, prendere questa 1/13, non che mi sia che non mi sia data, insomma. No, ci mancherebbe. Per favore, come posso fare? Sentiamo un po' se, come dire, il Ministero dell'Economia si è posto anche questo problema. Tra l'altro un altro ascoltatore lo stesso ci chiedeva di una cosa di questo tipo, adesso naturalmente me lo sono perso, ma era appunto la questione era sempre questa, comunque la somma che finisce al di sopra di questa soglia in dicembre, quando arrivano le 1/13. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi parliamo appunto delle nuove disposizioni governative che richiedono per ogni tipo di pagamento della pubblica amministrazione al di sopra dei 1000 euro appunto che questi pagamenti non vengano più fatti in contanti, ma vengano appunto effettuati o attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento elettronici appunto scelti dal beneficiario. Se si tratta di pagamenti delle spese delle pubbliche amministrazioni, se si tratta appunto chiaramente di stipendi o pensioni, la regola è sempre la stessa, però come avete avuto modo di sentire appunto questa è una questione che sta generando molta preoccupazione tra i nostri ascoltatori, perché soprattutto coloro che per principio o anche per altre difficoltà, naturalmente, perché non è che sempre si tratti di una questione di principio, non vogliono aprire nessun tipo di relazione con nessun intermediario finanziario, allora si chiedono che cosa possono fare. Ma c'è anche un problema aggiuntivo, perché molti pensionati percepiscono una cifra inferiore al limite di legge legge alla cifra dei 1000 euro, appunto, quella cifra superata la quale non può essere più pagata in contanti a decorrere dal 7 marzo prossimo, naturalmente. C'è chi percepisce una cifra inferiore, ma che viene superata nel momento in cui si percepisce la tredicesima. Allora, in questo caso, questo implica un obbligo anche per queste persone, Nicola Forte, all'apertura di una relazione con un intermediario, all'utilizzo di una carta elettronica di pagamento, all'utilizzo della IMSS card o quant'altro? Ci si è posti questo problema? Il problema è sicuramente monitorato, nel senso che la preoccupazione è diffusa. Occorre però distinguere, nel senso che il superamento della soglia dei 1000 euro deve avvenire con riferimento al singolo pagamento, quindi solo se la tredicesima supera l'importo deve essere utilizzato lo strumento tracciato, cioè se ed è normale che la tredicesima e fisiologica venga pagata in un altro periodo rispetto alle mensilità correnti, il superamento si realizza solo la somma, con la somma dei due importi il problema non esiste. Quindi se la tredicesima ovviamente è di 1100 euro, il problema emerge rispetto agli altri pagamenti effettuati nelle restanti. Da quello che mi risulta però, Forte, molto spesso appunto il pagamento delle due situazioni è contestuale. Ecco, allora a questo punto il problema esiste. Allora, quale può essere una soluzione pratica, un suggerimento che noi possiamo dare? Se io non sono un correntista e voglio evitare di aprire appositamente un conto corrente, una soluzione, sia pure con Dema, potrebbe essere quella di appoggiare l'accredito su un conto corrente di un familiare, a condizione però che il conto corrente sia contestato col soggetto, altrimenti non si riesce a tracciare il movimento, non si riesce a individuare il soggetto destinatario. Questo avrebbe, perlomeno questa soluzione, il beneficio di non raddoppiare i costi di gestione del conto corrente. È evidente però che se io do gli estremi del conto corrente all'istituto previdenziale, poi mi viene accreditata non solo la tredicesima, ma mi vengono anche accreditate tutte le altre mensilità. Certo è che se uno non vuole aprire un conto corrente, si trova costretto a farlo solo perché praticamente la soglia dei 1000 euro viene superata solamente una volta l'anno, certo che capisco poi la frustrazione anche dei nostri ascoltatori. Detto questo, invece, per chi contesta il principio della norma, io lo posso anche capire, perché molti dicono: ma è possibile che questo governo non si renda conto che non si combatte l'evasione fiscale colpendo i pensionati? Siamo sempre le solite cose. Io capisco tutte queste perplessità, capisco che l'anziano di 80 anni che fino a ieri ha ritirato 500 euro in contanti, è chiaro che adesso mettersi ad utilizzare l'INPS card o un altro strumento gli sta proprio sulla gola, però se non si comincia anche da questo, allora qua non si comincia mai. Detto questo, la ratio è più complessiva, si tratta anche non solamente di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio, ma piuttosto anche di ottenere un risparmio di costi in favore della pubblica amministrazione, perché anche lì bisogna intervenire, per cui io ci mettiamo nell'ottica che qualcuno qualche cambiamento del proprio comportamento appunto lo deve fare, oppure poi per le persone proprio completamente anziane, insomma, si possono sempre trovare dei modi anche in ambito familiare per poterle aiutare, almeno credo. Allora, chi sentiamo adesso? Mia mamma, ci scrive infatti un ascoltatore, ha 86 anni, ci vede poco, pensate che sia in grado di usare una carta, però sua mamma ha lei, magari un libretto di risparmio. Dottor Forte, può essere anche utilizzato, no? Allora, assolutamente un libretto di risparmio, oppure, come lei ricordava, anche una carta, perché la carta è utilizzabile come un bancomat, nel senso che mi posso recare presso l'ufficio postale e con la card che ho attivata posso prelevare la parte o la quota, anche l'intero di contanti, la quota parte o l'intera somma disponibile sulla card presso qualsiasi ufficio postale. Ecco, quindi potrebbe essere anche, mi scusi, no, perché voglio proprio battere il ferro finché è caldo. Allora, io vado in posta con la IMSS card, che mi viene rilasciata in questo momento, mi si dà la card all'interno della quale ho la certezza che ci sia tutto l'importo della mia pensione, posso fare contestualmente il pagamento, cioè posso contestualmente fare un cambio, no, lì allo sportello, prelevare un po' in contanti, ecco, quindi si fa nello stesso giorno. L'importante è che uno strumento elettronico di pagamento sia stato, come dire, monitorato il trasferimento di denaro. Esattamente, ho il primo passaggio dove ho il trasferimento, quindi l'accredito, chiamiamola, di questa moneta virtuale sulla carta, poi vado presso l'ufficio postale e a costi zero presso l'ufficio postale posso ritirare la quota di contanti necessaria. Non solo posso utilizzare la carta anche per pagare le bollette, potrei teoricamente andare presso lo sportello, prelevare e andare presso lo stesso sportello, consegnare allo sportellista il contante, questo se voglio avere un controllo diretto del contante che utilizzo, o posso direttamente tramite la card presso l'ufficio postale senza prelevare precedentemente, posso pagare le bollette. Allora, chi sentiamo adesso? Vabbè, appunto, visto che parlavamo prima di coloro che non digeriscono la ratio di tutta questa norma, sentiamo Giovanni da Rimini. Giovanni, buongiorno. Giovanni scomparso, ha deciso di non intervenire più, adesso se vuole lo recuperiamo, altrimenti in ogni caso lui parlava di sua zia che ha 70 anni e non ha nessuna intenzione di aprire un conto corrente, quindi parlava di una norma che agisce in piena violazione dei diritti dei consumatori, dei pensionati. Detto questo, Ale, allora abbiamo Mario da Isernia, nostro amico Mario ci aveva scritto tante mail questa mattina. Io, Mario, buongiorno intanto. Buongiorno Rossana, buongiorno Forte. Mi ero portata la sua mail in diretta perché è un ascoltatore che, dottor Forte, non deve raccontarci né farci delle domande relativamente al pagamento della pensione con strumenti diversi dal contante, ma riprendendo il suo poster di questa mattina che lei ha curato con grande dettaglio, voleva segnalare appunto una imprecisione che ha trovato. Allora gliela facciamo raccontare, e in modo tale appunto che il dottor Forte, che credo che abbia anche perso un po' la vista per scrivere questi punti sul poster di questa mattina, perché sono scritti anche caratteri molto piccoli, tanto dettaglio era necessario mettere. Allora gliela faccio dire direttamente da lui, da Mario, poi dottor Forte, così facciamo tutte le precisazioni che al nostro ascoltatore servono. Mario, ci dica. Sì, grazie, buongiorno. No, mi riferivo all'esempio riportato dal commerciante che porta in banca e versa un assegno emesso in suo favore il 5 dicembre per un importo di 2.000 euro. La risposta: l'operazione è corretta perché all'epoca dell'emissione il limite era 2.500 euro, eccetera, eccetera. Mi viene da pensare che semplicemente manca nell'esempio il dato fondante che l'assegno sia sprovvisto di clausola di non trasferibilità e che sia questo l'unico motivo per cui viene sottoposto ad accertamento nella mia porta all'esame quindi della data. Mm-hmm. Sbaglio? Proviamo a sentire, dottor Forte, era scontato fatto. È stato dato per scontato quello che è chiaramente appare chiaro a chi ha lavorato, diciamo, sulle due pagine, nel senso che il problema, come giustamente sollevato dal radioascoltatore, si pone solo con riferimento alla mancata posizione della clausola di non trasferibilità, ma lì si voleva sostanzialmente evidenziare un problema di data di entrata in vigore della nuova disciplina, nel senso che essendo l'assegno datato 5 dicembre e quindi datato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti che ha abbassato la soglia da 2005 a 1000 euro, se l'assegno è stato tratto il 5 dicembre, ovviamente con senza la posizione della clausola non trasferibile, altrimenti il problema non si sarebbe proprio posto, il comportamento è assolutamente regolare perché fino al 5 dicembre potevano essere tranquillamente tratti e messi assegni senza la posizione della clausola non trasferibile e con riferimento al limite di 2.500 non di 1.000 euro, quindi era un problema di data, quello era il problema che si stava esaminando. È ovvio che l'infrazione si configura solo stesso l'assegno non è apposta la clausola di non trasferibilità. Dottor Forte, per chi non ottempererà alle nuove regole sull'utilizzo del contante sono previste delle sanzioni che adesso vorrei perlomeno lasciare per un attimo da parte per parlare di quelle a cui, verso le quali potrebbero incorrere i pensionati che non si adegueranno alle nuove norme, cioè che non indicheranno all'INPS lo strumento di versamento della pensione mensile alternativo al contante. Il rischio massimo che corrono è quello di non poter ritirare la pensione a partire dal 7 marzo se non avranno detto io utilizzo un conto corrente piuttosto che un libretto di risparmi, piuttosto che la IMSS card o un'altra carta prepagata? Direi proprio di sì, perché qui dobbiamo distinguere, come abbiamo fatto, le disposizioni antiriciclaggio rispetto a queste disposizioni che sono piuttosto finalizzate al risparmio di costi della pubblica amministrazione, dato che l'INPS o la pubblica amministrazione è a conoscenza ovviamente e ha ben chiara la norma. Il rischio concreto non è che il pagamento viene effettuato contante, è che c'è un blocco della pensione, quindi nel momento in cui non arriva l'accredito, non ho la possibilità di recarmi presso lo sportello e ritirare la pensione in contanti, non subisco in concreto nessuna sanzione di tipo amministrativo, ma ne subisco una, ahimè, altrettanto grave, di altra natura, potremmo chiamarla sanzione impropria, effetto negativo, sì, che è quello dell'impossibilità di ritirare la pensione. Non tanto giusta, naturalmente, perché io adesso posso anche immaginare che queste comunicazioni dell'INPS siano arrivate a tutti, ma magari qualche pensionato che vive in un piccolo paese sperduto, che fino ad oggi si recava alla posta una volta al mese per ritirare il suo piccolo contante, adesso io mi chiedo appunto quanta capacità potrà avere di studiare una forma alternativa a questo pagamento. È chiaro che la rosa delle persone interessate a questa problematica sarà piuttosto limitata, però ce ne saranno un po' e queste persone spero che possano essere aiutate a trovare una soluzione rapida, semplice soprattutto, e che possa far passare anche questa manovra come nella maniera appunto più liscia possibile. Devo dire che c'è un ascoltatore, adesso non riesco a ritrovarlo tra gli SMS, che effettivamente pone una questione che mi sono posta anch'io, e cioè, dottor Forte, la pubblica amministrazione attraverso lo strumento elettronico di pagamento vuole tracciare la pensione, ma sapendo già quanto eroga il pensionato, non è una cifra già tracciata, già nota alla pubblica amministrazione? Qual è il problema di doverla far passare su uno strumento elettronico di pagamento, su uno strumento diverso dal contante? Sì, conosce l'importo, però utilizza un mezzo, cioè il pagamento in contanti, che è più costoso. Quindi non è tanto un problema di conoscenza di cifre, come abbiamo anticipato, ma è proprio di risparmio materiale di costi. Si pensi a tutti i costi per la guardiania, la custodia del denaro contante che si sposta fisicamente presso tutte le sedi periferiche, presso tutti gli uffici postali per effettuare materialmente il pagamento in contanti. Tutta questa mole di denaro, di contanti, non si sposterà più, e quindi tutti i costi di custodia, di gestione, ci sono costi vivi e costi di tipo amministrativo, ovviamente la riduzione sarà notevole, questo è il problema maggiore. Mario ci scrive: conosco tanti anziani, conoscenti, vicini che non hanno figli, oppure questi sono lontani, come potranno fare? Mario, ripeto, io auspico un'iniziativa di responsabilità per queste persone, che saranno probabilmente meno delle 450.000 che hanno ricevuto comunicazione da parte dell'INPS nella scorsa settimana e che sono state invitate appunto a individuare uno strumento di pagamento diverso dal contante. Detto questo, insomma, magari che si possa utilizzare questa IMSS card, e se ce l'hanno già, per esempio, avuto un invio, visto che questo è uno strumento che circolava già dal 2004, magari l'IMSS che si attivi con un risveglio di questo strumento, un rinvio magari, o un'alternativa diversa per poter fare in modo che le pensioni, che per le persone che appunto hanno difficoltà, per l'appunto, ma Alberto ci scrive: parlate dei pensionati come se fossero tutti handicappati, allora qua mettetevi anche d'accordo. Io sto parlando solamente di quelli che magari abitano in un posto sperduto in montagna e non hanno voglia di andare in banca, devono trovare altre soluzioni. Non sono degli handicappati, assolutamente, anzi io li sto invitando, così come facciamo con tutti gli esperti che intervengono a Salvadanaio, ad attivarsi e ad essere molto solerti anche nella relazione con l'intermediario finanziario, per cui assolutamente nessuno pensa che siano degli handicappati. Adesso mi ha fatto sorridere anche questo messaggio. Detto questo, però, le oggettive difficoltà di molti ci sono forte, poi saranno pochi, saranno magari 50.000, non lo so, 20.000, 30.000, però di queste persone bisogna tenere conto, non trova? Sì, chiaramente delle soluzioni andranno trovate. Per esempio, si pone in generale un altro problema di coloro, magari non si tratterà di un pensionato, che non possono accendere, attivare un rapporto di conto corrente perché hanno avuto problemi finanziari in passato. Allora, questi come faranno? Qui un problema effettivamente esiste, perché io posso, allora, nel momento in cui devo ricevere la pensione, se questo problema riguarda il pensionato, la soluzione qui può essere la card elettronica, in effetti, perché non accendo un rapporto di conto corrente, l'importo mi viene accreditato sulla card, la card la posso utilizzare per prelevare, per pagare le bollette, posso addirittura utilizzarla come un bancomat, anche se nel caso in cui io la utilizzi come un bancomat lì ho delle commissioni, e bypasso, supero il problema del conto. Mm-hmm. Del conto corrente. Certo, il problema del conto corrente rimane per coloro che devono fare più in generale un acquisto superiore ai 1.000 euro. Faccio riferimento qui piuttosto al problema dell'antiriciclaggio, no? Supponiamo che io debba acquistare un'autovettura, no? Non è che se non ho un conto corrente posso presentarmi al rivenditore con una somma in contanti per €15.000. E quindi lì, in questo caso, il problema è sicuramente maggiore. Mm-hmm. È vero anche che c'era prima, con la soglia che era sufficientemente bassa, 2.500, nulla di nuovo da questo punto di vista. Torniamo alle pensioni per concludere la nostra trasmissione, poi su tutta la rosa degli altri pagamenti da fare, appunto di importo superiore ai 1.000 euro, ci dedicheremo, vi prometto, un'altra trasmissione. Volevo sentire Sonia da Stresa, perché appunto contesta un po' anche questo atteggiamento allarmistico che molti hanno. Sonia, buongiorno, mi aiuti? Buongiorno. Sono un ex dipendente di Poste Italiane. Uh-huh. E penso che questo allarmismo può essere un pochino, cioè tutti i pensionati possono essere un pochino tranquillizzati, uh-huh. Nel senso che, aprendo un libretto postale, che è semplicissimo, chiedendo l'accredito della pensione, il pensionato si reca allo sportello e si incassa tranquillamente la sua pensione nel giorno che vuole. Infatti, Sonia, l'abbiamo detto anche prima, insomma. Esatto, cioè l'importante è che ci sia lo strumento, poi il giorno in cui la materialmente pensione si sa che viene accreditata, si accredita lì, la posta l'accredita sul conto, ma poi questo non significa che il pensionato si possa portare a casa un po' di contante. Esatto, si presenta quello che teme, portare anziché il libretto della pensione. E incassa la sua pensione tranquillamente, senza pagare una lira. Può essere aperto ai protestati, quindi anche chi ha problemi non ne ha più. Ah, bene, grazie Sonia che ci ha dato anche questa informazione, molto bene. Ma lei trova che abbiamo fatto una trasmissione che ha generato un po' di allarme? Ma più che altro, conoscendo i pensionati, non siete voi che avete creato l'allarme, sono i pensionati che si allarmano. Perché giustamente hanno una certa età, hanno certe abitudini. È difficile far cambiare certe abitudini, però per i rapporti che avevo io con tutti i miei pensionati, avevamo fatto a tutti, chi non aveva il conto corrente alla posta o alla banca, aveva tranquillamente già anni fa aperto il suo libretto e ci è trovato molto bene. Per cui anche lì, grazie Sonia per la sua testimonianza, grazie davvero di cuore per tutti coloro che continuano a dire: non avete capito che è un regalo alle banche, allora andiamo alla posta, c'è il libretto nominativo postale che è assolutamente gratuito, per cui lì non si può neanche contestare eventualmente questo aspetto. Mario dalla provincia di Brescia, ha sentito la nostra Sonia, che tipo di suggerimento ha dato? Quindi potrebbe essere praticabile anche per voi, no? Sì, ma il discorso, mia madre ha 92 anni, non ci vede e non riesce neanche a fare la firma. Mm-hmm. È molto allarmata per queste cose. Ma Mario, fino a questo momento che cosa cambia? Prima andava, qualcuno la accompagnava evidentemente allo sportello postale per ritirare la pensione. Che cosa cambia adesso? Tanto qualcuno ci deve andare, magari prende una delega. Sì, ma il fatto è che questa storia di fare questo bonifico bancario, le spese qua, quelle l'ha detto la posta, che non pagano niente. Ma dicono che non pagano niente, ok, quando va accreditato il soldo, ma quando vanno a prendere non pagano niente. No, no, guardi Mario, questa adesso io non ci posso mettere la mano sul fuoco perché ancora tutto il meccanismo non è partito. Da quello che so ci sarà un controllo rigidissimo su sui costi di queste operazioni. L'apertura di un libretto postale nominativo non implica alcun tipo di commissione da far sostenere appunto a chi apre questo strumento. Nicola Forte, vogliamo rispondere di nuovo alle perplessità di Mario, perché tra l'altro a proposito di Poste, poi da quello che ho letto, poi non ce li abbiamo neanche qui loro, non mi sembra neanche corretto starli a mettere sotto osservazione se non si possono difendere. Per esempio, una delle soluzioni che hanno proposto è il conto Banco Posta Più, che per coloro che accreditano la pensione entro il 31 marzo e decidono di accreditarla entro il 31 marzo è gratuito per tutto il 2012, poi non si sa, quindi anche lì, dottor Forte, qualche tentazione le banche di farsi pagare qualcosa, è chiaro che ce l'avranno, vorrei vedere. No, non v'è dubbio, le banche sono imprese, quindi da questo punto di vista nessuno vuole produrre in perdita, quindi bisognerà fare estrema attenzione e giustamente, come lei ricordava, un periodo di monitoraggio iniziale serve, sicuramente sarà utile per rendersi conto. Certo che anch'io non posso mettere la mano sul fuoco, ma da quelle che sono le comunicazioni fornite appunto dalle Poste, mi riferisco ad esempio proprio alla Card, io leggevo che il pagamento dei bollettini o il prelievo presso gli uffici postali sarà gratuito, mentre lo stesso messaggio specificava che se io utilizzavo la Card come bancomat presso uno sportello bancario, in quel caso avrei pagato una commissione. Però a me sembra che poi il dato fondamentale che emerga da tutti i nostri discorsi, dai contributi di tutti i radioascoltatori, è che il passaggio fondamentale che deve essere monitorato e tracciato è il momento in cui avviene l'accredito. Dopodiché il pensionato con la sua card, ovvero il libretto postale, potrà, oppure pagando attraverso la card i conti correnti, potrà comunque prelevare, entrare in possesso della disponibilità fisica del denaro che prima gli veniva messo a disposizione direttamente e adesso attraverso un passaggio aggiuntivo. Benissimo, dottor Forti, io la ringrazio per essere stato con noi, dobbiamo concludere la nostra trasmissione, però ricordo agli ascoltatori che ci vorranno scrivere a salvadanaio@radio24.it che Nicola Forte è uno dei più attivi in quanto ha risposte date in privato ai nostri ascoltatori, per cui sono sicura che non mancherà la sua assistenza anche questa volta. Intanto grazie e buona giornata. Sicuramente, con vero piacere. Grazie. E ricordo anche il poster del lunedì sulle Sole 24 Ore sulla lotta al sommerso e si parla di tutti gli altri casi relativi appunto a operazioni finanziarie, transazioni economiche di valore superiore ai 1000 euro che vanno adesso gestite diversamente. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione e Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Domani.